tema della previsione dei terremoti è ovviamente un tema molto importante per la società e non è certo affrontato solo in Italia o dal nostro istituto, ma all'interno di un quadro generale mondiale. E diversi sono stati i tentativi e ad esempio nel caso particolare in esame si valuta qualcosa legato al radon o altri elementi geochimici. Il discorso più generale è che una serie di fenomeni o di variazioni di qualche tipo di proprietà possono in parte venire riscontrati o meno, ma per essere poi classificati come un certo segnale precursore di un'attività futura ha bisogno comunque sia di procedure di valutazione. Nel caso specifico guardiamo i dati, valutiamo quanto questi dati siano risolti dall'errore di misurazione che non conosciamo, vediamo, si possono presentare in un numero testale, ma deve esserci sempre una validazione scientifica del fenomeno, perché può essere giusto o sbagliato le persone che poi affrontano gli argomenti, però il mondo accademico, il mondo della ricerca ha dei suoi standard e bisogna rispettarli, come penso che nessuno si sentirebbe di andare per strada a cercare qualcuno che l'opera al cuore. Va in un ospedale e si fida di un cardiochirurgo per farsi operare al cuore. Non è che si può trascendere da come la società si struttura per rispondere a certi argomenti. In questo caso i segnali visti nel caso dell'Abruzzo non rientrano in un meccanismo di valutazione scientifica di nessun tipo, per cui nessuno è in grado di stabilire quanto non siano reali o quanto non lo siano. Poi la tecnicità, se il radon nemmeno è il deus ex machina di queste cose, che fra l'altro lo stato attuale in tutto il mondo dove operano diverse migliaia di ricercatori non hanno mai osservato comunque sia segnali così chiari sull'argomento, ma anche noi abbiamo fatto studi legati a questo aspetto. Devono essere assolutamente prima validati dalla comunità scientifica per essere ritenuti importanti. L'ultima riflessione è sul tema della previsione o prevenzione. Io ritengo molto più importante il secondo. Accanirsi sul tema della previsione è anche un